Sì, in realtà con gli agricoltori che sono qui presenti, molti degli agricoltori qui presenti avrebbero tantissime storie da raccontare e tantissime progettualità che almeno noi come Terra Trema e come Folletto abbiamo condiviso, nel senso che comunque nel nostro piccolo, ma anche con esperienze, diciamo così, importanti. Tra l'altro, appunto, senza nessun finanziamento, senza nessuno sponsor, senza nessuna istituzione, siamo riusciti a creare dei rapporti tra la città e la campagna, ma non solo, cioè con Milano, con altre esperienze agricole in giro per l'Italia. E abbiamo visto che si può fare, si può valorizzare, nel senso che, guarda, mentre parlava Sandro, sappiamo che i prodotti di Sandro arrivano a Milano e hanno costruito delle relazioni di tipo sociale, delle relazioni di tipo economico. E quindi, non so, si può fare, si possono sviluppare delle progettualità innovative. Passerei la parola al signor Gabriele Corti, che è un altro dei personaggi con cui abbiamo condiviso tutta una serie di progettualità. È un personaggio che in questo territorio, diciamo così, è uno degli agricoltori che ha innovato, ha sperimentato, ha rischiato. Grazie Domenico per avermi invitato e anche i Folletti che hanno organizzato la serata. Io volevo iniziare condividendo con voi un'emozione, che però io vivo molto di emozioni, la mia storia è fatta tanto di emozioni, le mie scelte sono state legate a delle emozioni. La scelta, l'emozione che mi ha fatto fare, che mi ha fatto partire un sogno, che è quello dell'agriturismo. Come chi lo conosce, come lo sto intendendo io, perché di agriturismi ce ne sono tanti, nasce dalla prima immagine del film, bellissimo filmato che abbiamo visto, cioè l'emozione di gustare quello che la terra ti dà e farlo diventare un alimento. E che nell'agriturismo il passaggio è brevissimo, diventa la condivisione di questa emozione. Quello che io ho cercato e sto cercando di fare è proprio questo, cercare di tirare fuori dalla nostra terra i nostri prodotti, quelli che è la storia di questo popolo, di questa umanità che ha attraversato questi territori, è riuscita a tirare fuori e cercare di condividere con persone. Se vogliamo c'è anche un meccanismo economico come quello descritto San prima, fatto in una maniera diversa, cioè trasformare e servire, non trasformare per vendere. Ma è lo stesso, in fondo, è servire, è trasformare un prodotto grezzo in alimento e servirlo nel luogo. E quindi credo che per questo motivo questa forma di economia, di microeconomia che è l'agriturismo, è nobile, perché è impatto, è veramente impatto zero quando è fatta seriamente. L'altro aspetto che volevo così, che nasce un po' dal mio vissuto come imprenditore, anche se vogliamo, quando ho introdotto l'aspetto del benessere, per me è stato un grande spunto di riflessione su cos'è il benessere, perché è qui che forse mi è piaciuto tantissimo l'intervento di Domenico. Soprattutto quando dice una cosa che io condivido totalmente, se vogliamo fare un passo avanti dobbiamo cambiare un modello di sviluppo e secondo me vuol dire mettere al centro, per cambiare questo modello di sviluppo vuol dire mettere al centro il territorio, l'agricoltura e l'ambiente. Questo credo che sia veramente un modo serio e che ci dà delle prospettive, soprattutto nel futuro. Se non facciamo questo, finisce tutto, io sono convinto di questa cosa. Questo vuol dire anche che occorre fare anche un cambiamento di mentalità, perché se noi facciamo questa cosa vuol dire che il cibo non è più un luogo di consumismo, come lo è adesso, dove noi cerchiamo il cibo solo per spendere il meno possibile e mangiare tanto. Bisogna dare un valore alle cose. È chiaro che il biologico non rende in questi termini, perché varrebbe molto di più di quello che costa, se vogliamo vedere. È pagato poco per quello che vale, perché la valenza del cibo biologico non si ferma alla salubrità del cibo, coinvolge tutto un territorio, coinvolge una socialità del territorio, non si ferma al mero fatto salutistico, non ce ne frega niente neanche di questo. Quindi quando tutti noi, il sottoscritto, va a fare la spesa, pensiamo anche che la fare la spesa è anche un modo per riflettere sulla centralità di un aspetto umano che è il cibarsi, e quindi che valore diamo a questo gesto. E quindi c'è una riflessione da fare sul valore agricoltura, ma anche sul valore alimentazione, secondo me molto importante. E concludo con questo ultimo aspetto, che è un po' l'impegno di questi ultimi 3 anni che sto portando avanti con l'aiuto di tante persone anche di questo territorio. Io credo che questo territorio abbia delle valenze turistiche enormi e non sottovalutate. E quando intendo turistiche, certamente per un territorio come questo non intendo il turismo di massa. Turismo, penso a un turismo naturalmente ecocompatibile, naturalmente a misura d'uomo, naturalmente fondato su cultura, agricoltura e gastronomia, che esiste. Sono 3 elementi fondamentali per fare turismo, questi qui: ambiente, agricoltura e gastronomia. Noi l'abbiamo questa cosa, il territorio è cresciuto, io vedendo la trasmissione di Linea Verde, non me l'ho fatto dell'altra di domenica, non so se qualcuno ha avuto l'occasione, insomma viene fuori che comunque c'è da 20 anni che si è mosso qualcosa, e qualcosa è successo in questo territorio. Ci sono delle gente che ha riscoperto delle trasformazioni, ha riscoperto dei prodotti di una volta, ma anche cose innovative. Cioè è un territorio che è cresciuto tantissimo da quando ho cominciato io ai giorni ad adesso, insomma ha fatto dei passi da gigante. Per cui quando io il discorso del turismo, cos'è il turismo? Il turismo è anche parte soprattutto dal mantenere e migliorare il nostro il luogo in cui viviamo noi, cioè e per poi saperne godere tutti insieme. Se c'è questa cosa, allora questo territorio è pronto anche per accogliere e dare giovamento ad altre persone che vengono da fuori. Quindi vuol dire, prima cosa, siamo noi i primi turisti di questo luogo, siamo noi i primi fruitori, siamo noi che godiamo e beneficiamo della bellezza che c'è nel nostro territorio, che è quella architettonica di questo luogo, per esempio, quella ambientale del Parco Sud, del Parco del Ticino, eccetera, eccetera, eccetera. È evidente che quello che vogliamo noi, anche per questo obiettivo, è quello che il territorio venga tutelato totalmente, che vengano creati dei servizi che forse ci sono già e basterebbe rimetterli in rete e creare delle sinergie. Ecco, io credo che la parola forte di questo momento qui è creare delle sinergie anche tra agricoltori e cittadini. Grazie.